Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Fulvio Conti, romano, 66 anni, sposato, un figlio e tre nipoti, famiglia popolare, padre panettiere, a 11 anni fa il garzone e si paga gli studi lavorando di notte, da solo impara le lingue, inglese, francese e spagnolo. Prima ragioniere, poi laurea in economia, tesi con Federico Caffè, suo compagno di corso è Mario Draghi. Nella sua carriera cambia azienda molte volte, dalla Mobil Oil alla Montecatini, alla Montedison, alle Ferrovie, ancora in Telecom e infine in Enel, dove dal 2005 è amministratore delegato e direttore generale. Ecco, dottor Conti, tante aziende diverse, è un'esperienza che consiglia? Beh, sicuramente sì, è un'esperienza che credo si faccia... crescere. Fa crescere sicuramente, bisogna avere una famiglia stabile, la capacità di muoversi in giro per il mondo e avere la curiosità però fa di bene. Imparare i mestieri. E si fa carriera più in fretta? Si fa certamente carriera più in fretta. Noi in Enel chiediamo che ci siano persone disposte a muoversi, almeno una esperienza internazionale, ci vuole, volte ecco. Cambiare il mestiere. Senta, dottor Conti, a leggere il vostro sito sembrate i campioni mondiali di tutto. Il titolo negli ultimi due mesi è cresciuto il 30%, però gli utili sono calati del 12% rispetto all'anno scorso. Diavolo e acqua santa stanno insieme? Stanno insieme perché crediamo che i nostri numeri dimostrino la forza relativa. I nostri investitori cominciano a ricredere nella nostra capacità di fare utili nel tempo, di essere più performanti di altri in un'economia globale che soffre. Evidentemente certo, la nostra diversificazione ci ha dato maggiore forza. Parleremo della diversificazione, infatti, perché è un dato importante. È un dato strutturale o congiunturale, però questo borsa bene, utili meno? Cioè... Beh, credo che sia congiunturale, la crisi economica tende a migliorarsi. Prima o dopo finirà. Prima poi finisce, quindi noi siamo posizionati in maniera molto opportuna per poter cogliere tutte le opportunità che il mercato ci dà. Senta, però, se c'è la crisi, la prima cosa da fare non sarebbe intanto ridurre il costo della bolletta, che è il più caro d'Europa per cittadini e per imprese? Beh, innanzitutto non è vero che sia il più caro d'Europa per tutti, ma è vero che è cara, è vero che il problema è europeo, non è soltanto italiano. Il nostro continente soffre di un gap di costi rispetto ad esempio ad Asia e Stati Uniti. La nostra bolletta, insomma. La bolletta è anche il frutto di quello che noi consumiamo. Noi importiamo l'85% dell'energia primaria, importiamo particolarmente gas, che è l'energia più costosa, e quindi abbiamo un costo relativo. A cui aggiungiamo anche degli oneri accessori che pesano sicuramente sulla bolletta. Senta, se non è colpa vostra, allora è colpa del contesto. Di chi è la colpa? Solo il contesto? No, non è colpa del contesto. Voi è qualche colpetta è colpa della mancanza di scelte industriali che i governi avrebbero dovuto prendere e che hanno poi favorito un certo tipo di costi nati dall'esigenza di premiare eccessivamente lo spunto di nuove energie rinnovabili che oggi adesso ci arriviamo su questo. Senta, dottor Conti, però in ogni caso, in genere nel mercato, quando un prodotto si vende meno si fanno i saldi. Perché non fate anche voi un po' di saldi per energie abbassate? Ma se consulta il nostro sito, se guarda la nostra pubblicità, se legge i giornali, troverà centinaia di offerte diverse che si adattano alle singole esigenze. Quindi un po' di saldi li fate. Andiamo da premi, andiamo da carte di credito gratis, andiamo da sconti specifici. Abbiamo tutta la possibilità di offrire ai clienti una grande attenzione. Senta, però intanto lei lo sa meglio di me che molte imprese non investono in Italia perché l'energia costa troppo. L'energia costa più cara per alcuni settori, non necessariamente per tutti, come dicevo, ma è anche il frutto delle scelte che sono state fatte in maniera sbagliata, secondo me. Quindi un cane che si morde la coda un po'. Beh sì, abbiamo premiato le rinnovabili con costi eccessivi. La bolletta è fatta di tre elementi: l'energia, il costo della distribuzione e il costo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono tanti, 13 miliardi di euro che si ripartiscono su tutti gli italiani. Non siamo soli, i tedeschi fanno 20 miliardi in più. Però non li addebitano le imprese, li addebitano i cittadini. Questo crea una differenza di... Ecco, e lei allora il governo cosa farebbe? Cambierebbe, farebbe pagare ai cittadini un'altra cosa in più? No, io cercherei in qualche modo di ridurre evidentemente il gravame degli oneri accessori, cercherei di dare un profilo di politica industriale che consenta alle aziende di investire nel tempo anche in efficienza energetica. Noi promuoviamo l'efficienza energetica. Ecco. Parliamo di una cosa concretissima che ci abbiamo davanti agli occhi tutti, la legge di stabilità, che è tirata da tutte le parti, lo vediamo, ne parliamo tutti i giorni. Ecco, aiuterà lo sviluppo oppure continuerà a frenarlo come ha fatto fino adesso? Beh, in primo luogo dobbiamo aspettare che finisca il dibattito parlamentare, non conosciamo ancora che cosa uscirà l'esito finale. È evidente che il tentativo del governo di ridurre il carico, il gravame fiscale, di ridurre le spese, va incoraggiato e probabilmente va anche rafforzato, perché abbiamo bisogno di avere maggiore disponibilità di reddito a favore delle famiglie e dei lavoratori per ricreare un po' di mercato. Ecco, no, ma io lo chiedo perché il presidente di Confindustria, in qualche modo il suo presidente, ha detto che è una legge che fa schifo. Beh, io credo che sia opportuno aspettare che finisca il dibattito parlamentare e poi dopo analizzeremo. Noi premiamo perché ci sia maggiore riduzione. Ma l'indirizzo che ha preso fiscale, all'inizio, ecco, quello è il punto vostro. Perché dobbiamo ridare soldi certezza ai costi delle imprese e più soldi in tasca ai lavoratori. Senta, lei anche, appunto, per quello dicevo, il suo presidente è anche vicepresidente della Confindustria, ma è normale che il capo di un'azienda fortemente pubblica sia ai vertici di Confindustria? Ma su questo mi lasci dire. Noi siamo al 31% controllati dal Ministero del Tesoro, però abbiamo il 69% con 1.300.000 azionisti, tra cui tutti i fondi internazionali. Quindi si sente privato? Ci sentiamo privati, ma comunque al di là del fatto pubblico-privato, le aziende industriali devono trovare una coesione. Un luogo di rappresentanza. E questa è Confindustria, non c'è dubbio. Senta, però non trova che c'è un po' di confusione in Italia in generale tra capitalismo pubblico e privato? Non è che è stato sempre così chiaro? Forse c'è troppo pubblico in alcune attività che potrebbero più facilmente essere svolte da privati con maggiori vantaggi per i cittadini clienti. Ad tipo? Esempio le municipalità, per esempio tutte le attività, cioè, di servizi. Cioè lei le privatizzerebbe? Io privatizzerei tutte. Questo, tutte le municipalizzate? Tutte le municipalizzate. Tutte che vengono date tutte, perché questo aiuta sia i comuni che lo al Stato. Piede. Ad accogliere denari, sia a rendere più efficienti le imprese. Che sono una palla al piede, insomma, così organizzate come sono. Non so dire una palla al piede, ma certamente un costo in più, perché poi alla fine diventano strumenti di diffusione di posti di lavoro e posti in consiglio d'amministrazione. Un po' indistinti, ecco, sì, abbiamo visto dei numeri pazzeschi. Ecco, in Italia oggi per ripartire, comunque lo sta dicendo in qualche modo, servono capitani coraggiosi, gente che ha voglia di intraprendere. Lei ne ha incontrati in Confindustria? Ma in Confindustria ce ne sono migliaia di capitani coraggiosi, tutti quegli imprenditori che continuano a credere nella loro azienda, che sviluppano nuove tecnologie, che si aprono nuovi mercati, quelli sono i capitani. E qualcuno coraggiosi che l'ha colpito specialmente? Ce ne sono migliaia, sarebbe la lunga miseria. Non mi vuol dire due o tre nomi. Ma ce ne sono tantissimi. Che medaglia d'oro a qualcuno? Per fortuna l'Italia ancora un paese manifatturiero, il secondo paese manifatturiero in Europa. Quindi sono la settima economia al mondo. Insomma, dal suo tanti osservatorio ne vede tanti. Capitani coraggiosi però sono stati considerati anche i privatizzatori di Telecom, i risanatori di Alitalia. La prima sarà venduta, l'abbiamo detto, l'Alitalia, se va bene, ai francesi. Senta cosa dice Carlo De Benedetti di questi capitani coraggiosi. Colarino arrivò lì, utilizzò la cassa dell'Olivetti per iniziare la distruzione della Telecom. Fu proseguita con grande intensità e successo. È successo, mi pare, successo nel distruggerlo. Uno si ritrova, un liberista come me in economia, si trova a dire viva le partecipazioni statali. Beh, fortissimo, eh? Meglio le partecipazioni statali? Ma è un giudizio, direi, forte, sicuramente devo rispettarlo. Io ho delle idee non necessariamente coincidenti. Le partecipazioni statali hanno funzionato molto bene quando sono ben gestite, quando non sono mal gestite. Questo vale per tutte le aziende. Ma questo vale anche per le aziende private, quindi la distinzione tra quelle ben gestite, quelle che hanno prodotti innovativi, quelle che si posizionano sul mercato. Insomma, De Benedetti, lei è d'accordo o no? Ma su questo giudizio sono giudizi molto forti. Senta, l'Enel aveva Wind, è stata venduta agli egiziani, Vodafone l'hanno comprata i tedeschi, adesso gli spagnoli comprano Telecom. Ecco, ma un paese moderno può non avere le sue telecomunicazioni, che sono una sorta di eserciti moderni? Ma lo vediamo continuamente. Io credo di sì, basta avere delle regole di mercato e avere la possibilità di seguire le aziende, ancorché private o straniere, che facciano bene il loro mestiere. Quello però è quello importante. Però, dottor Conti, in tutta Europa stati e governi difendono i loro campioni nazionali nelle telecom, anche i grandi privatizzatori, solo noi no. No, ci sono paesi che difendono tutti i campioni nazionali, ma in realtà è una difesa direi del, ormai che ha trovato il suo tempo. Io sono per il modello di Wimbledon, non so se lei conosce il torneo di tennis, sì. Dove gli inglesi lo organizzano da sempre. Non lo vincono mai, ma loro ne ottengono lo stesso vantaggio, sia di immagine sia di profitti. E il primo ministro a Downing Street ha la luce, l'acqua e il gas che gli arrivano da stranieri, non se ne accorge nemmeno, lui è contento, il servizio è ottimo. Io parlavo di telecomunicazioni, però è che sono una cosa diversa. Ma anche nelle telecomunicazioni si fa con quello. Lei deve mettere le regole, scusi. In America riescono a spiarci anche senza avere un'azienda di Stato. Come funziona? Privati bravi. Senta, quindi non è che siamo più indietro degli altri da questo punto di vista per il fatto di non avere telecomunicazioni. No, non credo proprio, anzi. Senta, comunque, adesso, per far quadrare i conti, il governo Letta vuole vendere le quote pubbliche di Enel e di Eni. Lei è d'accordo? Questa è una scelta che spetta al governo, non spetta a me giudicarla. No, le chiedo se è d'accordo. Continuo a fare il mio mestiere. Va bene, ho dato che è un grande manager, avrà un'opinione. Ho 1.300.000 azionisti già oggi, quindi non mi metto a parlare. Averne 200.000 in più fa lo stesso. Esattamente. Ok, quindi va bene privatizzarla. Senta, però lei, con l'acquisto della spagnola Endesa, ha fatto dell'Enel, e questo lo riconoscono anche i suoi avversari, un gigante industriale. È soddisfatto del risultato? Soprattutto una multinazionale, proprio per tornare al tema del campione nazionale. Sì, certamente sono soddisfatto, lo rifarei anche adesso, perché ha creato una dimensione di scala, ci ha aperto al mondo. State nel mondo. E siamo differenziati, diversificati, ben posizionati, equilibrati nella nostra struttura commerciale. Business. Per questo i nostri investitori continuano a credere nei nostri valori. E per quello la privatizzazione andrebbe bene, non è un problema. Ma andrebbe bene lo stesso. Senta, a chi dice che l'Enel è un gigante, però, ma con l'acquisto di Endesa ha fatto un passo più lungo della gamba per via della crisi? Ma guardi, le dirò alcuni numeri importanti. Quando comprammo Endesa, il nostro debito, che fu utilizzato finanziare, imputano, sì. Ci portò ad avere un rapporto tra margine operativo lordo e debito 5.6, e il titolo era apprezzato, valeva 8 euro. Lo sa cosa c'è? Oggi siamo a 2,6 volte il margine operativo lordo, quindi abbiamo dimezzato il nostro debito. Siamo arrivati ad avere un debito. Però voi avete sempre un debito, parlando di debito, avete un debito di 44 miliardi. Ecco, col mercato in crisi non rischiate per il vostro sviluppo di non avere mezzi? No, noi continuiamo ad avere appunto un rapporto tra debito e margine operativi lordi, che abbiamo acquistato aziende che producono cassa, quindi siamo a 2,6, e le do una notizia, a fine anno probabilmente saremo a 40 miliardi di euro di debito. Cioè da 44 a 40? Esattamente, sì, pensiamo di arrivare a 40. Questo mi sembra una buona notizia per tutti, ecco. Ma mi spiega bene, perché se non aveste fatto con l'Enel questo salto di qualità, diciamo, l'Enel sarebbe rimasta una piccola utility locale, insomma, nazionale. Beh, vediamo l'esito di tante altre realtà che sono rimaste tipicamente italiane, continuano a soffrire. Avere tutto dentro un unico paese corre il rischio di una regolazione, corre il rischio di tassazione, corre il rischio di non avere lo spazio di mercato per poter crescere. E quindi era indispensabile. Avevamo bisogno, e abbiamo sicuramente con successo conseguito una dimensione mondiale. Infatti le altre le vuole chiudere. E ci sono tanti italiani orgogliosi di noi in giro per il mondo. Per fortuna. Senta, e quindi lo sviluppo sta in questa direzione, continuare a svilupparvi così. Ma voi in questo sviluppo farete, non so. Sì, certamente. Abbiamo un programma da partire da adesso, in questo momento. Già stiamo assumendo, abbiamo un programma di assumere 1.500 giovani in questo paese. 1.500 giovani? 1.500 giovani, tecnici, laureati, in grado di poter cambiare il nostro sangue, darci quell'entusiasmo e quella spinta che abbiamo sempre bisogno di avere al massimo. Ecco, e quindi da subito questo? Sì, è in corso in questo momento. 1.500 giovani all'Enel. Dobbiamo mettere a punto alcune normative. Come al solito il nostro paese è un po' più complicato. Ha 22 distinte leggi regionali dell'apprendistato che lo rendono un pochino più complicato. Ma speriamo di mettere a posto di superare questo gap. Però assumiamo anche in altri paesi. Cresciamo in Sud America, quindi assumeremo anche là. Però in Italia, adesso ci interessa l'Italia. 1.500 assunzioni non sono poche. Senta, lei, tra i tanti mestieri che ha fatto, e l'abbiamo visto nella scheda, qual è stato il più difficile? Non vorrei sembrare arrogante, ma quello che farò prossimamente. Ah, questo mi piace, sì. Vabbè, poi me lo dirà cosa farà prossimamente. Senta, e tra i manager che sceglie, Quali sono le caratteristiche che cerca di più? Adesso sta assumendo, sono ragazzi, ma diciamo i manager di livelli anche superiori. La passione per il lavoro, la curiosità di imparare cose nuove e la capacità di mettersi in gioco sempre, comunque. Ecco, ma lei si fida dei cacciatori di teste di più oppure di più del suo istinto? Ma uso entrambi e credo che sia giusto pesare le informazioni che arrivano dai cacciatori di teste con dei contatti diretti. Sì, ma poi però si fida del suo istinto? Mi fido abbastanza del mio istinto. Ma ci piglia ogni tanto? No. Molto spesso sì, qualche volta ahimè anche a me capita di dover sbagliare. Però ci ha preso molto. Ci ho preso molto, credo abbiamo un'ottima squadra noi all'Enel. Senta, Enel è impegnata anche sul fronte della cultura. Quali sono i campi prevalenti dell'impegno nella cultura? Beh, sosteniamo alcune istituzioni che sono rilevanti per il nostro paese, ad esempio Santa Cecilia, per esempio La Scala, per esempio la Galleria Borghese e così di seguito. Facciamo... E nel cuore? E nel cuore è sicuramente una parte di questo nostro impegno verso la società, la sostenibilità. Cioè il sociale. Il sociale, a favore la gente che ha bisogno. E li ha scelti lei? Queste, cioè, corrisponde a un suo bisogno? No, c'è la possibilità di dedicare 5 milioni di euro ogni anno, gli azionisti decidono, sì, evidentemente, certo. E un gruppo di brevissime persone che ricevono che tanti scelgono. Progetti e scelgono interventi nel sociale, sia in Italia sia nei paesi in cui siamo presenti. È un'iniziativa bellissima. Senta, noi abbiamo visto questi spot che state facendo. Ci sono dei guerrieri che sono protagonisti della pubblicità. Chi sono questi guerrieri? I guerrieri sono i cittadini che tutti i giorni si danno un grande affare per migliorare se stessi e per affrontare le tante sfide che questo paese... All'atteggiamento che bisogna avere verso la vita, questo volete dire. Questo ecco. Sono. I nostri clienti sono dei guerrieri per definizione perché combattono tutti i giorni una battaglia durissima. Senta, a proposito di battaglia durissima, lei la dipinge tanto rosa, però l'Economist... qualche giorno fa titolava, leggo testualmente, i fornitori di energia elettrica, cioè quelli come voi, devono affrontare una vera e propria minaccia esistenziale. Insomma, siete a rischio. No, rischio no, ma abbiamo passato e stiamo passando grandissime difficoltà. C'è un intervenzionismo dello Stato con nuove tassazioni, noi siamo... delle centrali elettriche che stanno ferme, dei fili elettrici che sono divisibili. Lo Stato fa presto a mettere le mani in tasca alle città voi. Elettriche e cioè, a toglierci i soldi. Sto Stato mette le mani in tasca e mette le mani in tasca dove ci sono, dei profitti. Soldi da prendere. Peccato che noi li reinvestiamo questi profitti. Certo. Quindi sarebbe in qualche meglio modo taglia l'albero alla radice, quindi fa un po' un errore. E allora questo è diffuso a livello europeo, per questo l'Economist ci accomuna. Si noi in realtà ci difendiamo un po' meglio gli altri, ma stiamo come gli altri in mezzo a una crisi. Sempre restando l'Economist, si dice che le prime 20 società energetiche dal 2008 a oggi hanno dimezzato il loro valore, sono passate da 1.300 miliardi di dollari alla metà. Anche voi state lì dentro. Beh, siamo là dentro, anche noi abbiamo sono perso... come i poli di Renzo oppure... Abbiamo perso valore in borsa, non c'è dubbio, stiamo cercando di recuperarlo, un pochino l'abbiamo recuperato come lei stesso abbiamo detto poco fa. Però sta cambiando il modo in cui noi facciamo la nostra industria. Dalle grandi centrali si passa infatti, adesso lo a vediamo una distribuzione diversa. Lei... dice, insomma, se la crisi, come sembra, provoca un calo del 2% l'anno, queste sono le previsioni, tra il 2010 e il 2015, la vostra capacità produttiva invece aumenta. Ma allora aumentate, non serve a niente. Beh, aumenta nei posti dove cresce l'energia, non aumenta nei posti dove non cresce. Quindi stiamo crescendo in Sud America, cresciamo nelle rinnovabili, di cui siamo un leader mondiale, cresciamo nei paesi dell'Est Europa, non cresciamo nei paesi... a economie mature come l'Italia e la Spagna evidentemente, ecco. Quindi serviamo gli investimenti per favorire ulteriore crescita nel prossimo futuro con investimenti oculati. Quindi questi 1.500 che assumete saranno gli ultimi? No, assolutamente, per fortuna i primi di tanti, siamo speriamo. 34.000 in Italia, abbiamo bisogno di ricambiare il nostro sangue in continuazione. Senta, ma con l'esplosione del solare, dell'eolico in Germania, in Spagna, in Italia, ne stavamo parlando. Voi come state trasformando il vostro modello energetico? Beh, stiamo investendo soprattutto nelle reti più intelligenti, nelle reti che riescano a sopperire alla continua volatilità dell'input che arriva da queste nuove produzioni, in modo da rendere possibile che ci sia spazio per tutti, evidentemente. Però l'energia alternativa costa sempre meno. Allora ritorno alla bolletta, costa sempre meno l'energia alternativa, potrebbe calare un po', dica di sì, andiamo avanti. Beh, intanto ci portiamo dietro il fardello di circa 200 miliardi di euro che dobbiamo spendere per aver eccessivamente finanziato le rinnovabili all'inizio. Vabbè, certamente migliorano, ma nel tempo questo miglioramento dovremmo poi investirlo in nuove tecnologie e soprattutto investire nella rete che dovrà raccogliere tutta questa energia. L'energia delle rinnovabili, a differenza della vostra, va subito dell'altra parte della vostra, diciamo, va subito in rete e però se non è utilizzata si disperde. Ecco, riuscirete a stoccarla per non perderla? Beh, ci stiamo lavorando, abbiamo sicuramente in questo momento... È un problema, no, quello sì, grosso? Sì, ma il problema dello stoccaggio è una delle evoluzioni tecnologiche a cui stiamo lavorando e che ci vedranno presenti sicuramente con grande dispiego di forze. Ma c'è un conflitto drammatico tra la potenza termoelettrica che cresce e quella delle energie alternative? No, non c'è. Da questo punto di vista basta trovare il modo per dosarla, per stoccarla. No, ma per questo siamo degli ottimi ingegneri. Per questo abbiamo sistemi di distribuzione di rete efficiente, abbiamo inventato nuove tecnologie in grado di sopperire a questo. Ma tra Enel e Terna, nella corsa a individuare questi modelli di stoccaggio per le energie rinnovabili, siete in concorrenza? Non siamo necessariamente in concorrenza. Mi pare di sì. Ciascuno allora. Fa il suo mestiere, dovrebbe farlo bene. Noi cerchiamo di farlo al meglio delle nostre capacità. Un po' di concorrenza con Terna mi sembra che possa essere utile, allora mi pare di capire, diciamo così almeno. Ecco, e il conflitto di interesse con chi produce rinnovabile vi chiede gli allacci alla rete? E voi siete i padroni di questi allacci? Ne abbiamo allacciati 500.000 senza nessuna lamentela. No, non abbiamo alcun problema. Qualche lamentela c'è. Ma mi creda, non è così. Non è significativa. 500.000 senza alcun problema. Cioè, chiedete, vi sarà dato. Esattamente. Va bene, senta, in questo quadro difficile comunque, che l'abbiamo descritto, ho letto che lei sostiene di essere in grado di garantire una crescita del 2% del PIL, mi sembra tanto. Garantire non è il verbo giusto. Noi come Confindustria abbiamo fatto uno studio, abbiamo fatto delle proposte per lo sviluppo dell'Italia in cui identifichiamo risorse fino a 300 miliardi di euro che possono essere impiegate in maniera diversa per favorire la crescita. Chiaramente la riduzione del cuneo fiscale. Ma 300 miliardi dove? Presi dove? Presi da tante voci dello bilancio dello Stato. Ma perché anche Passera qui ha detto che lui scenderà in campo con 300 miliardi. Prese di imposizioni indirette rispetto a posizioni dirette, bisogna liberare risorse e soprattutto ridurre le spese dello Stato non produttive. Ecco. Senta, girando il mondo, come fa lei molto, l'immagine d'Italia è davvero così bassa come ci sembra di leggendo giornali, guardando le televisioni straniere? L'Italia non è soltanto non è soltanto food, fashion, furniture. L'Italia è anche industria sofisticata, è anche tecnologie avanzate, è anche una capacità imprenditoriale. Noi ne siamo e quindi un non buon è esempio. Così pessima. Non è così pessima. Dobbiamo recuperare fiducia in noi stessi, questo sì. Questi, all'interno soprattutto in noi stessi. Con la capacità che un governo stabilmente costituito possa darci una visione per quindi il futuro. Lei dice teniamo il governo stabile. Dobbiamo avere niente un governo crisi di governo. Per fortuna no. Senta, le faccio un'ultima domanda. Nella presentazione abbiamo parlato di suo padre che faceva il panettiere. Lei faceva il suo garzone. Ma il pane da solo lo sa fare ancora o no? Beh, io facevo il garzone di un padrone. Papà non era purtroppo padrone, era anche lui panettiere al servizio. Ma è molto tempo che non lo faccio. Però come andare in bicicletta, uno non dimentica il suo mestiere. Quindi il mestiere futuro, quello difficilissimo, sarà di rimettersi a fare il panettiere. ho anche altre idee. Anche altre idee. Non me la dice anche una? Anche quella di lavorare a completare il mio lavoro. Grazie mille. Grazie, dottor Conti. Allora, ringrazio tutti. E allora Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi, siamo di nuovo qui per la nuova settimana. Buongiorno. E andiamo con le col nostro con le bolle? Con le bolle. Allora, sigla. Allora, cari ascoltatori, caro Giovanni, caro Pietrangelo, il problema è sempre e soltanto uno. Ora, tu mi dirai, Mario, ma perché stamattina la cavalcata delle Valchirie? Esattamente, perché questa mattina la cavalcata delle Valchirie? Deutschland über alles. Sì, allora, stamattina c'è veramente un interessantissimo articolo del Financial Times su quello che è successo nella Banca Centrale Europea quando Mario Draghi ha tagliato il tasso di riferimento. E cosa è successo? È che i tedeschi, insieme ad altri paesi del nord, si sono messi di traverso, c'è stato uno scontro furioso all'interno del board, una divisione forte tra, diciamo, i paesi del nord Europa che non volevano di fatto l'intervento di Draghi e il cosiddetto Club Med, i paesi come l'Italia, altri e così via, e alla fine Draghi ha preso questa sua decisione, però si teme che all'interno della Banca Centrale questo dissidio rimanga permanente, con effetti ovviamente poi su quelle che sono le decisioni di politica monetaria, a questo punto perfino il futuro dell'Europa. Segnalo che ieri sul Sole 24 Ore, quindi c'è un continuum, non è uno sghiribizzo del Financial Times, ma lo riportiamo anche noi in Italia, Paul Krugman ieri sul Sole diceva: Berlino danneggia l'economia globale. Quindi diciamo, questa Germania è sempre più al centro delle critiche di tutti gli altri partner europei. Sì, ricordi che qualche giorno fa noi avevamo dato il documento del Tesoro americano che criticava la politica economica degli Stati Uniti. La Germania, che ha perso due guerre, vuole vincere la terza, questo è il fatto. Ma prova sempre a vincere, poi alla fine la perde. Anche le altre due all'inizio sembravano vinte. Questa la conduce con altri mezzi. Io do solo un consiglio agli italiani di cercare di capire subito da che parte stare, perché le ultime volte non è che abbiamo scelto molto bene, vero Pietrangelo? L'ultima volta mi pare che, come disse nella celebre telefonata Alberto Sordi, l'alleato è passato al nemico. C'è qualcosa di politica interna, io penso, che bisogna dare, e forse Buttafuoco c'è qualcosa da dirci. Ah, i salamini che diventano cotechini. Siamo agli insaccati. Insaccati, sì, diventano stigghiola, trattandosi di cose siciliane, perché il protagonista è Angelino Alfano. No. Angelino Alfano. No. A cui si prepara una stigghiola. Beh, mi piace questa immagine. Cioè, tipico. Stigghiola? E la stigghiola sono le interiora lavorate, insaccate dentro le budelle, insomma gastronomia da strada, quelle che per mangiarle bisogna mettersi sempre in una posizione eretta. No, che eretta, se ti metti eretta ti sporchi, devi chinarti in avanti, far gocciolare sul marciapiede. Ti fermo solo un secondo, perché abbiamo il senatore Dalì che gli stigliola li conosce, che naturalmente il stigliola se ne intende, e che però nel nostro caso è il relatore della legge di stabilità in Senato. Buongiorno senatore. Buongiorno. Ecco, scusate la tempesta anche telefonica, perché sono proprio in una tempesta fisica. Mi dispiace. Allora saremo rapidissimi. È vero che lei è relatore della legge al Senato, ma è vero che gli emendamenti li ha pensati tutti insieme a Berlusconi? No, li abbiamo nelle riunioni ma abbiamo discusso gli emendamenti del Popolo della Libertà, mi pare assolutamente normale questo. E ce n'è qualcuno che sta a cuore particolarmente a Berlusconi, a tutti voi, insomma, che diventano, come dire, un blocco? Se non ci sarà quello, ci sarà crisi? Ma sicuramente la tassa sulla casa, cioè l'eliminazione definitiva della tassa sulla prima casa. Vabbè, quello mi pare che il Presidente del Consiglio ha detto che non si paga neanche la seconda rata, sì. Quindi stiamo. Avete vinto sull'EMU. Vale per il 2013, ma deve andare a regime dal 2014 in poi, proprio della legge di stabilità. Va bene. Lo deve prevedere, mentre la proposta del governo ha una reintroduzione di 2 punti per mille. È un altro punto qualificante sul quale siete disposti a fare le barricate, o vita o quello, o crisi di governo? La revisione delle pensioni, della penalizzazione delle pensioni e anche l'incremento delle somme per il cuneo fiscale. Ma insomma, per quindi abbiamo proposto delle compensazioni che hanno suscitato qualche polemica. Però anche qualche interesse, mi pare che il Presidente del Consiglio abbia aperto su questa strada. Sì, ecco, senatore, certamente. So che deve partire, voglio solo sapere, ma allora si spacca il PDL? Ma noi siamo tutti speranzosi che ciò non accada, perché siamo forti della convinzione che un PDL unito attorno naturalmente al Presidente Berlusconi, ma con la consapevolezza di dover essere al servizio del Paese, possa un domani anche rientrare nella maggioranza. Però diciamo, senatore, per essere concreti, i giornali di oggi danno tutti spaccatura nel PDL con Alfano che se ne va, non è vero? No, io non credo che sia Alfano se ne vada, perché sarebbe anche un una storia di noi tutti. D'altronde abbiamo, almeno io tra l'altro sono della prima ora del 94 e non quindi dice che di no, va bene. Va bene, ma insomma quello un'ultima cosa, quello che si pagherà lo sapremo prima o poi o no? Perché per adesso si capisce poco. Noi abbiamo un tormentone su questo. No, guardi, noi abbiamo sicuramente l'idea precisa di quello che si debba pagare per le seconde e terze case, non più del 10,6 per mille, e per la prima casa nulla. Poi abbiamo messo un tetto anche sulla tassa dei rifiuti, che è quella che per Trise, ora è Tarsi, che preoccupa di più. Grazie senatore, grazie mille, buon viaggio. Grazie il nostro tormentone in attesa della legge. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Pietrangelo, da lì è interrotto il tuo... Non ho capito cosa dovevamo mangiare, come si chiamava quella cosa? Si chiamava stigghiola. Stigghiola. Sempre un insaccare. Allora, Angelino Alfano ha parlato chiaro, ha detto che sebbene decaduto, sebbene decollato, sebbene cancellato, Berlusconi dovrà appoggiare il governo di Enrico Letta. Ma Berlusconi ha mandato a dire... a mezza botta, ma a botta definitiva, ha mandato a dire che farete la fine di Fini. Aia. E allora a questi morituri destinati ad attraversare le fauci del Caimano, io personalmente dedico un canone classico. Brancaleone alle crociate. E quindi Angelino Alfano me lo immagino vestito coi paramenti propri del guerriero disfatto ma invitto ed eroico che si avventura appunto coi suoi fidi a sgominare il feroce Caimano. Ce la farà? Non ce la farà? Speriamo che venga a raccontarcelo in diretta, in un faccia a faccia, quanto prima. Che dici, Mario? Ma non lo so se ce la fa, Bisogna vedere. È una battaglia di quelle durissime. Avremo molte bolle da dedicare. Berlusconi è duro. Sono 20 anni che vanno avanti questa storia. Senti, se c'è il Cyber Monday in Cina, cosa molto divertente. Acquisti di e-commerce, sostanzialmente. Ti dico solo che solo Alibaba l'anno scorso ha fatto 3,3 miliardi di dollari. Quindi puoi immaginare le dimensioni di questo mercato. Ma chissà cosa esce da questo summit cinese che deve segreto del partito che deve ridefinire il modello di gestione e di sviluppo. Sai, hanno un miliardino di persone da gestire, non è una cosa molto semplice. Poi in Cina ci sono enormi contraddizioni, come sanno i nostri ascoltatori. Certo. Quindi loro non fanno più i piani quinquennali, ma fanno la programmazione. Una programmazione a più breve termine. 800 24 00 24, per chi vuole chiamare, 349 238 6666, per chi vuole scrivere un SMS. C'è una musica che piacerà a Pietrangelo. L'abbiamo, ahimè, anticipata. La regia mi ha mandato Starman. Ma Pietrangelo avrà la sua. Voi direte perché? Perché il nostro Parmitano, nostro astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale, è rientrato a casa, come sapete tutti, e qualcuno dice che già gli mancano le foto su Twitter. Però tranquilli, cari italiani, noi avremo presto un altro astronauta nello spazio, è una donna, è la Sam Cristoforetti, e nel 2014 sarà in orbita per noi, quindi è molto bello. E prima di passare a sentire dove era il canone ieri sera, vorremmo sentire Pietrangelo con la sua canzone della settimana. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che ho come il sospetto che sia amico di Battiato. Cos'è? Su 30 puntate la trentesima più o meno, la trentunesima, guarda, su 30 perfino 50, perché là dove, là dove la poesia canta la verità, noi ci siamo. Professor Simonelli, dove era il canone ieri sera? Ieri sera il canone era lontano dalla politica, da Letta e Alfano, era alle 23.15 su Rai Movie, nello speciale quotidiano che oggi si chiama Daily, sul Festival di Roma, per almeno due motivi. Il primo è che a me piace la televisione che sta sugli avvenimenti, perché la televisione che appunto non costruisce gli avvenimenti, non pretende di essere al centro del mondo, non fa soltanto autoreferenzialità, ma si apre sul mondo, sulle cose che contano, sulle cose interessanti, come è, con tutte le critiche che si possono fare, un festival del cinema. Il secondo motivo è che questa rubrica è condotta bene, discretamente, da Marco Liorni, con tante interviste, con i collegamenti con il red carpet, cattura i divi, ieri sera c'era Scarlett Johansson. Insomma, quindi viva Rai Movie! Viva Rai Movie, perché appunto segue il Festival di Roma, lo segue in un orario decente, perché alle 23.15 si può ancora stare svegli, non all'una di notte come fa un'altra rete pubblica o generalista, e quindi insomma all'una di notte deve proprio buttarlo via. Invece mi sembra che alle 11:15 di sera uno... Vabbè, è un gioco di squadra, è un gioco di squadra, sono complementari. Di cosa è successo a Roma in quella legge, senza giocare sulla solita parodia del cinema, come fare il bagno a Valeria Marini nella Fontana di Trevi, perché sì, di queste cose ne abbiamo già viste, basta. Ecco, sì, e per te, Mario, dov'era il canone ieri sera? Ah no, io mi sono rivisto Waterloo, il film, quello del 70, quello con il grandissimo Rod Steiger nei panni di Napoleone. E dov'era? Su Sky On Demand. Ho capito che tu sei, ho capito che abbiamo pubblicità in diretta. Sei sempre su Sky, tu non ho capito. Ma t'avranno regalato l'abbonamento. No, il fatto è che quelli, ahimè, se lo fanno anche gli altri, va bene, mi danno la TV on demand, cioè sono io che scelgo. Hai sentito la voce della regia? Cosa dicono? Ha detto che sei un consumista. Conferma. E tu? Io? Tu, Pietrangelo? Sono andato a rivedere Checco Zalone. Ah, non era no. Canone, era canone. È servizio pubblicissimo. Puro. Puro, perché così fa dimenticare come gli altri comici non sono in grado di toccare l'universale. E invece lui sì. Eh sì, è così, la buttiamo in buio. Ma cosa ti ha colpito? Cosa mi ha colpito? Sì. Beh, la battuta politicamente scorrettissima quando entra nel negozio e dice... E dice, ma della Che Guevara avete qualcosa? Una borsetta? E beh, in fondo è un marchio, no, ormai.